Stai su Radio Wombat. Questa è Radio Wombat. 8 Hertz. Yeah, questa era Halloween, appunto ripartiamo da capo con il primo pezzo che detti l'anno scorso. Dai, fate gli auguri alla trasmissione così insomma mi carico un po' di più. E vabbè, quest'anno già questa puntata sarà in realtà molto diversa da quella dell'anno precedente, perché andrò a farvi ascoltare per quasi tutta la puntata le soundtrack o i main theme di tanti film horror che uscirono. Sinceramente tanti sono degli anni 80, perché era la mia giovinezza, per cui chi ha della mia età ritroverà tante belle cose e chi non è della mia età le potrà scoprire. Quindi ragazzi più giovani, sentite bene, prendetevi gli appunti sui film se non li conoscete. E tra l'altro ecco, è una puntata che magari si avvicina a una nuova trasmissione che ha avuto l'alba la settimana scorsa, due settimane fa, non mi ricordo, si chiama Coming Song, tipo Coming Soon, il giochino era quello, che è dedicato proprio alla storia del cinema e alla colonna sonora. Ma non c'è solo questa tra le nuove trasmissioni, per ora c'è 30 Boots 20, spero di averlo detto bene, sul Punk Oi fondamentalmente. Sì, l'ho detto bene. Comunque sulle sottoculture da strada. Senza Frontiere, che invece è una bellissima trasmissione che parla delle situazioni nei vari posti a livello mondiale, per cui insomma è molto molto interessante, non come quelle musicali, che insomma la musica è sempre in disparte rispetto a cose più sociali. Va bene, la faccio finita. E ecco, il pezzo che vi metto ora appunto è tratto da un grandissimo film che è A Nightmare on Elm Street, in italiano era Nightmare dal profondo della notte, dell'84, di Wes Craven, che è diventato popolarissimo, la figura di Freddy Krueger, il maniaco bruciato con gli artigli, con una mano, con una specie di guanto con gli artigli, tutto bruciato, con la maglia a strisce rosse e verdi, mi pare, perché appunto dava un colore che dava particolarmente fastidio, inquietava. Qui vi metto proprio la theme song, che è tratta proprio dall'apertura del primo film, che è stupenda, l'ha composta Charles Bernstein, che sono tutti nomi che non conoscerete, ma sono quasi tutti compositori che hanno fatto un po' la storia del cinema e hanno prodotto tantissime colonne sonore fondamentalmente. Beccatevi Charles Bernstein, che io ho già paura, in realtà fu uno dei pochi negli anni 80 a sfruttare la componente elettronica. regia abbiamo spento le luci in modo tale che c'è una luce fievolissima e quindi entriamo dentro l'incubo, il nightmare. La storia era abbastanza innovativa, ovvero questi ragazzetti venivano turbati la notte da questo assassino che in questo paesino americano anni fa uccise tanti ragazzi e le famiglie decisero di bruciarlo, sicché lui è ritornato sbruciacchiato nel sonno di nuovi ragazzi del posto, uccidendoli, volendo anche per sfinimento, perché insomma se non riesci a dormire è difficile. Quindi insomma queste persone erano veramente un po' nella cacca, diciamo. E c'era un altro film paurosissimo, famoso, che si chiama Rosemary's Baby, in italiano il sottotitolo è Nastro Rosso a New York, pensa che schifo, del 68, diretto dal grande Roman Polanski, tratto dal romanzo di Ira Lewin. È considerato uno tra i film migliori suoi. Tra l'altro il cast era bellissimo, c'era Mia Farrow con i capelli corti e John Cassavetes, che erano la coppia di buoni sposi, e poi c'erano Ruth Gordon e Sidney Blackmer, che erano i satanisti anziani della situazione. Tra l'altro lessi un articolo tanti anni fa che diceva, un'intervista a Polanski, diceva: quando fece il film gli telefonarono fior fior di satanisti congratularsi con lui, perché quello che aveva descritto era molto vicino alla realtà di come succedono le cose. Comunque noi mettiamo quest'altro brano per ora di film seri, perché ci saranno anche trashate ma altrettanto belle, perché spassose. E il compositore è Christoph Komeda, e questa è l'apertura di Rosemary Baby, che quando inizia fa tanta paura. Andiamo un po' nelle cose un pochino più, più stupide ma altrettanto horror, anzi che toccano altri generi, un pochino più trash. Ed è il caso di Reanimator, roba degli anni 80 nei prossimi brani. Reanimator, che era un film dell'85 di Stuart Gordon, che adesso insomma è molto conosciuto come regista cult, appunto di un po' di trashate splatter e gore, dove si vede tanto sangue, tanto budella, però in un modo molto ironico, non come nei film di oggi che sono quasi disgustosi. Quello era un disgusto ironico, insomma, era da farsi due risate. E vabbè, insomma, questo dottor Herbert West, studente di medicina parecchio pazzo con gli occhialini, molto nerd, inventa un siero per resuscitare i morti. I morti resuscitano, però iniziano ad uccidere e fanno un gran casino. Detta così è un po' banale, ma forse è banale anche il film, ma se lo vedete c'è un perché della bellezza di questa pellicola. E comunque la colonna sonora è di Richard Band, un altro compositore che ha fatto per lo più tantissimi film, appunto di serie B, che poi sono diventati cult. È il Reanimator Theme. Questa era la demo di Reanimator. Subito a bomba un'altra colonna sonora, un demo degli anni 80, precisamente dell'84. Intanto vi dico che la sceneggiatura era di Chris Columbus, che era famoso in quegli anni, per un film che ha diretto il grande Joe Dante. Allora, praticamente succede che ci sono dei buffi animaletti che sembrano molto bonaccioni, e sono bonaccioni in realtà, che sono dei gizmo, e se li trovi devi seguire tre leggi, perché se no è un gran putiferio. La prima è mai esporla alla luce, altrimenti lo irrita o lo può uccidere, particolarmente quella del sole. La seconda legge è non bagnarlo mai, perché essendo un animaletto asessuato, questo si riproduce come veramente un coniglio. E il terzo, non lo devi nutrire dopo mezzanotte. Tutte queste tre leggi nel film vengono infrante, e dai gizmo nascono questi esseri lucertoloni un po' umanizzati, buffi, cattivissimi, che hanno il nome dei Gremlins, che è un film famosissimo, e questa è la loro... Li avete sentiti sogghignare e sghignazzare alla faccia di tutti. C'era una scena bellissima che uno di loro veniva ucciso frullandolo praticamente. Era una scena che a noi ragazzini ci piaceva tanto vedere. E comunque adesso siamo passati appunto su queste atmosfere più frivole, più cabarettistiche, volendo, perché anche l'horror, alcuni tipi di horror hanno queste musiche molto più ritmate e più colorate, anche se il fondo è scuro, e proprio come quella che metterò adesso, per un film molto particolare che si chiama Meet the Feebles, del neozelandese Peter Jackson, che è famoso oggi per la trilogia del Signore degli Anelli, ma in realtà anni prima era famoso per pochi, perché era un regista cult che faceva dei film splatter e gore incredibili, vuoi come Bad Test e Brain Dead, che sono meravigliosi. Se non li conoscete, trovateli, perché veramente sono uno spasso, soprattutto Bad Test, che era low budget, veramente ci collabora praticamente tutta la famiglia di Peter Jackson, era uno spasso, ma anche i film successivi. poi è diventato molto commerciale, bla bla bla, infatti non lo seguo più. E comunque Meet the Feebles era un film particolarissimo, perché era fatto a pupazzetti tipo il Muppet Show, però in chiave appunto orrorifica e scorrettissima. C'è tutta una storia dietro che non vi racconto, ma i personaggi, che sono appunto antropomorfi, cioè sono degli animali che comunque come il Muppet Show, che poi hanno molto di umano in realtà come fattezze, e sono i peggio, drogati, bipolari, sodomiti, trafficanti di droga, stanno dietro alla pornografia, fanno le stragi armati fino ai denti, fino alle zanne anche. E quindi insomma è uno spasso gran guignolesco, e questa è una chicca che vi metto perché 8 Hertz è l'unico programma che vi può mettere Meet the Feebles, il Dem, di Peter Dasent, che appunto ha fatto anche la colonna sonora di Brain Dead. E buonissimo ascolto, fatevi anche due risate, ma occhio agli assassini. Entertainment history. Put your hands together for the Fabulous Feebles Variety Hour. Meet the Feebles, meet the Feebles. We're not your average, ordinary people. Meet the Feebles, meet the Feebles. Animal acts and other attractions. Selection of the sea. Some action. A contortionist. And more than this. A hippopotamus. Unconditionally guaranteed to save you. When you make the Feebles. Make the Feebles. We're not your average. Ordinary people. Make the Feebles. Make the Feebles. And now. What a lineup we've got for you tonight! But first, give a huge reception to our very own Venus, the gorgeous hunk of hippo hood, Heidi! Ale, stupenda, stupefacente, stupidissima, ma geniale. Era un pezzo tratto da Meet the Feebles di Peter Jackson. E continuando sempre sulle cose pazze, qui iniziamo un po' una parentesi sui gruppi punk che hanno un po' suonato un metal, si sono prestati per i film horror. Io ne ho scelto qualcuno. E, tra l'altro, questo è molto bello, tra l'altro. E il film era assurdo, si chiama Killer Clowns from Outer Space, cioè tipo gli pagliacci assassini dallo spazio profondo, che è una parodia anche nel titolo di film come la Guerra dei Mondi o L'Invasione degli Ultracorpi. E un film di serie B, ormai diventato cult, dell'88, scritto e diretto dai fratelli Chiodo. E praticamente parla di questi pagliacci che vengono dallo spazio e vanno ovviamente in America, perché l'America è sempre bersagliata da tutti, ovviamente, e trasformano gli umani in bozzoli di zucchero filato, che mi sembra geniale. E tra l'altro si scopre che non è la prima volta che i clown, cioè gli alieni, venivano sulla Terra, ma erano venuti precedentemente. Infatti la figura del clown è stata proprio ripresa da alcuni che avevano già avvistato questi alieni. Mi pare geniale. Comunque, tutto per dirvi che la colonna sonora in realtà l'hanno curata i The Dickies, che era un gruppo punk attivo dagli anni 80, americano di San Fernando Valley, che sta in California, e fecero questo, tra i loro dischi fecero anche proprio il disco Killer Clown from Outer Space, e noi ci sentiamo il demo, che secondo me è fantastico. Buon ascolto. Che fecero la colonna sonora Killer Clowns From Outer Space dell'88. Geniale, geniale il film, geniale la colonna sonora. Mi ha ricordato tanto un gruppo che in realtà di colonne sonore non ne ha fatte, ma il suono era quello e la follia pure. Era un gruppo post-punk di Manchester che si chiamano Magazine, che sono abbastanza conosciuti, conosciuti a livello ovviamente non così commerciale come potrebbe venirvi in mente. Il pezzo si chiama The Great Beautician in the Sky, tratto da Real Life del 1978, che uscì per la Virgin, e per questo erano commerciali, anche se insomma averne di gruppi come erano i Magazine in periodo post-punk, perché era proprio del 78, è sempre una colonna sonora di film horror. Great musician. erano i Magazine, ma intanto è successo che mi hanno scritto di leggere questo bellissimo articolo, bell'articolo della BBC che si chiama What Makes a Great Horror Movie Soundtrack di Arva Halder, che non so chi sia, però l'articolo è una sorta di guida e di inchiesta sul perché i film horror hanno comunque, i bei film horror hanno grandi colonne sonore horror, che è una cosa che non va dimenticata. Cioè, se tu fai un film horror e la colonna sonora non è buona, il film horror non è buono. E tra le cose si parte da Murnau, per poi andare a Psycho, per finire in Stranger Things, che vi avevo già fatto ascoltare tempo fa, che la colonna sonora synth ricorda molto le cose di Carpenter. Ringrazio la persona che mi ha mandato l'articolo, lo potete leggere sul grande fratello di internet. E noi andiamo avanti con un altro gruppo post-punk che poi è diventato più gotico proprio con questo disco, che è il Black Album, è il Black Album dei The Damned del 1980, e anche qui è veramente si avvicina molto a una colonna sonora che potrebbe essere un po' rock, un po' punk, di alcuni tipi di film dei quali vi ho fatto ascoltare prima le colonne sonore vere e proprie. Questo si chiama Lively Hearts del 1980 dei Damned, che sono un gruppo fondamentale. Take a look outside. e buon compleanno Terz, buon compleanno Radio Wombat. Trovate i social, i classici come Twitter e Facebook sul sito, scriveteci a postawombat@insiberia.net. E, oltre alle trasmissioni che ho citato prima, continuano tante altre, come per esempio, come avete ascoltato prima, l'Accademia della Brusca, La fuga del gatto di musica classica, i contenitori come Fuoco alle polveri, oppure Coccoli al silicio, Slick Chicks, Chick di musica, anche quella molto a tema a seconda delle puntate, Passaggio a Nord-Ovest, un radiogiornale sulle questioni della piana tra Sesto e Firenze, e poi cos'altro, Tonight Alive con dei grandi live o delle retrospettive incredibili, e forse l'ho detti quasi tutti, Uru di musica africana. E appunto poi le nuove Senza Frontiere, 13 Boots 20 e l'altra sul cinema, cioè l'altra, la sola sul cinema per ora, che si chiama Coming Song. Noi comunque andiamo avanti, ritorniamo un attimo su alcuni film e rock o punk o metal. Loro sono i Ramones, il pezzo è famosissimo, l'avete ascoltato sicuramente in qualche roccoteca da due soldi. Il pezzo è Pet Sematary, che appunto è tratto dalla colonna sonora di Pet Sematary dell'89, che era un film di Mary Lambert, tratto dal romanzo Pet Sematary di Stephen King, che è famosissimo, insomma. Lì nella colonna sonora, oltre a esserci Pet Sematary, che è stata scritta apposta, c'è anche Cinese Punk Rocker. Comunque Pet Sematary lo trovate anche in Braindrain dell'89, è famosissimo, adesso ve l'ascoltate, Ramones. Under the October with the steamboats, ancient goblins and wallows come at the grand line making a sound. The smell of death is all around, and at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Addicted to the sacred place, this ain't a dream, I can't escape. Molders and fangs that are picking up bones, spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. Live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I feel a chill. Victor is grinning, flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life. avviciniamo al metal becero, sempre di più, e ci siamo arrivati con un film che veramente l'unica lancia positiva da spezzare a questi tipacci che rinominano i film in italiano con dei titoli assurdi, a sto giro vale per questo film, perché il film si chiama Trick or Treat, quindi è proprio una roba di Halloween, però in realtà in italiano lo chiamarono Morte a 33 giri, e ci sta veramente molto di più. L'unica volta che secondo me l'Italia, i produttori italiani hanno azzeccato qualcosa, Morte a 33 giri è molto metal, molto anni 80, e ci trovate un sacco di spunti, un sacco di poster, un sacco di prototipi, anche volendo, del metallaro degli anni 80. Lo guardai quando era al cinema, e ero metallaro, ero parecchio piccolo, per cui insomma mi arrivò e mi piacque tanto. La cosa è che tutta la colonna sonora è uscita in disco, che si chiama proprio Trick or Treat, e l'hanno composta i Fastway, che era un gruppo metal di quel periodo. E tra l'altro, guardando anche dei commenti, per quanto possano valere sul tubo, risulta che i metallari proprio si immedesimano tantissimo proprio nella colonna sonora. Cioè, secondo loro sono pezzi belli. In effetti, ascoltandola, è stato duro scegliere un pezzo rappresentativo del film che avrò visto 2 miliardi di volte, che appunto poi alla fine parla di questo metallaro che resuscita dall'aldilà e fa un gran casino e dà dei compiti al metallaro sfigato, perché i metallari erano sfigati negli anni 80, gli venivano pestate le Reebok dai compagni di scuola più fighi. E fino a un certo punto, quando gli dice di uccidere delle persone che non gli va assolutamente di uccidere, perché non c'entrano nulla, e quindi insomma gli dà una bella regolata a questo tipo che si chiama che era una rockstar fittizia. Ora non mi ricordo come si chiama, peccato, perché era un nome assurdo. E vabbè, loro sono i Fastway, il pezzo si chiama After Midnight, Trick or Treat del 1986, così come Trick or Treat, Morte a 33 giri, il film in questione. Yeah. chiamava la rockstar in questione, ovviamente non potevo scordarmelo, e vi giuro non ho letto su internet. Si chiamava Sammy Carr nel film, questo anche lui un po' sbruciacchiato in faccia, un po' glam metal, tipo i gruppi black metal, glam metal degli anni Ottanta, ecco, sono molto truccato, capelli gonfi e cattivo, che esce, lo spirito esce dalle casse quando lui suona questo disco, che Gene Simmons, quello dei Kiss, che fa il DJ a una radio, gli dà, che è proprio la versione inedita di un disco che pesa anche tanto, ha una grammatura grossa, spessa, per cui è tutto molto affascinante. E mi ricordo anche che c'è anche un cameo di Ozzy Osbourne che fa il prete, e Sammy Carr lo prende, un prete televisivo di quelli che ci sono americani, e Sammy Carr lo prende direttamente dalla persona, dalla televisione, e lo risucchia via. Era buffo vedere anche Ozzy Osbourne in tali vesti, ecco. E poi c'era un'altra colonna sonora, anche qui c'è un aneddoto un po' triste da raccontare, che è tratta da Ghoulies 2, che in italiano è Il principe degli scherzi, sottotitolato, e qui si ricade nell'oblio dei sottotitoli stupidi, dell'88 di Albert Band, poi alla fine sono tutti registelli, e insomma i Ghoulies sono una sorta di Gremlins di serie B, cattivi anche loro. Però si svolge tutto in un parco di divertimenti, e poi si infuriano anche loro e fanno un gran casino. Comunque, tutto per dire che la colonna sonora era degli Wasp, che era un altro gruppo metal becero degli anni Ottanta. Il pezzo si chiama Scream Until You Like It, che però insomma era molto power. Mi ricordo che io ce l'avevo in vinile, lo comprai nel negozio fidatissimo del paesino dove abitavo, e era un picture disc fatto proprio tipo blob, cioè non era tondo, era tutto molto tipo sputo, tipo una roba amorfa, però si sentiva il pezzo, perché era credo un 45 giri. Comunque mio fratello me l'ha venduto e quindi non ce l'ho più. Era buffo, magari. No, vale un sacco, non me ne frega nulla, però era buffo, era un bel ricordo. Comunque, Wasp, Scream Until You Like It. You never know what to expect from the inside. Get your tickets now. Really scary, mister. Come on in. We'll be right back. Che succede? Aiuto, aiuto, mi sto muovendo da solo, vengo posseduto. Aiuto, che succede? Che succede? Come mai? Aiuto, vado da solo. Daylight come and me want go home. Work all night and I drink a rum. Daylight come and me want go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and me want go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Lift 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me want go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me want go home. A beautiful bunch, a ripe banana. Daylight come and me want go home. Hide the deadly black tarantula. Daylight come and me want go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot punch. Daylight come and me want go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot punch. Daylight come and me want go home. Hey, is a day, oh. Daylight come and me want go home. Hey, is a day, is a day, is a day. Daylight come and me want. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Day-o, day-o. Daylight come and me want go home. Day. E se non l'avete riconosciuta, era il pezzo, uno dei pezzi che navigano nel delirio di Beetlejuice di Tim Burton, che ovviamente dovevo inserirlo in una puntata sul post Halloween. Beetlejuice, scritto anche sottotitolato, ormai stasera ce l'ho con i sottotitoli brutti in italiano, Spiritello Porcello, a parte molto a 33 giri che è il massimo, insomma, che era un film dell'88 e interpretato da un grande cast tra cui c'era Gina Davis, Alec Baldwin, Winona Ryder, Catherine O'Hara e Michael Keaton, che faceva appunto Beetlejuice, che era il bioesorcista, come dicono nel film, cioè è il contrario dell'esorcista, un fantasma che si sbarazza degli esseri umani. Perché? Perché questa famiglia là ha un incidente, non se ne accorgono, per loro è tutto normale, vanno a casa, la casa poi viene abitata da altri, loro via via si rendono conto che sono morti, sono dei fantasmi. E a un certo punto partiva questo pezzo di Harry Belafonte, che è un pezzo storico calipso degli anni 50, per cui tutti i vivi si mettono a ballare questo pezzo, come si può dire, rapiti dal loro spirito, ecco, e dallo spirito di Beetlejuice. Ritorniamo al rock. Al rock è il garage con un pezzo dei Fuzztones, che fecero proprio un disco a tema halloweeniano che si chiama Mostra a Go Go. C'è anche un pezzo che si chiama Happy Halloween o Halloween, però ne ho scelto uno che si chiama Dinner with Drac, che Dinner with, cioè a pranzo, a cena con Dracula, e l'ho trovato geniale. 8 Hz Radio Wombat, se ci sta ascoltando a caso. A dinner was served for three at Dracula's house by the sea. The orders were fine, but I choked on my wine when I learned that the main course was me. Dessert, there was battering confetti and the veins of a mummy named a Betty. I first found upon it, but with ketchup on it, it tasted very much like spaghetti. How's the cartilage, Igor? Igor. What a swimmer is Dracula's daughter, but her pool looks more red than it water. The blood stains the belt, but it's easy to float, 'cause blood is much thicker than water. Oh, it's a new splatter, Igor. Dracula lived in a stony palace with his wife, Stoned Alice. She was so wrinkled, bumpy and crinkled, that Alice looked like one big callus. Grandi Fuzztones che insomma ravvivavano un po' la cosa con il loro garage rock horror, almeno in questo disco si chiama Monster a Go Go. Ormai metto la puntata, sta finendo. Gli ultimi due pezzi che riguardano un po' il mondo dell'horror, diciamo più di questi anni, più contemporanea, proprio di nuove uscite che hanno delle colonne sonore belle. E appunto c'è un film che è geniale, che è bellissimo, che si chiama What We Do in the Shadows, che è del 2014 di Taika Waititi e Jemaine Clement, neozelandesi appunto. Il film è stato realizzato come mockumentary, ovvero i mockumentary sono dei finti documentari. Anche Peter Jackson ne fece uno su un grande regista neozelandese che aveva scoperto prima di tutti tante tecniche del cinema, fu un anticipatore. E se ti imbatti a vederlo e non sai che stai guardando una cosa finta, pensi che sia vero, che sia un documentario che fa parte della storia del cinema, ma Poi in realtà lo è diventato come presa in giro, come finzione che è molto vicina alla realtà. Comunque questo è un mockumentary legato ai Fuzzstones, che parlavano di una cena con Dracula a suon di spaghetti. Appunto parla della vita di alcuni vampiri, anche di fasce, di secoli veramente diversi, e c'è una colonna sonora molto bella, bella per quanto è il film. E i registi sono andati a scandagliare tanti tipi di musiche, anche balcaniche, insomma di tutti i tipi, a seconda anche dei personaggi che sono presenti nel film. E l'apertura della pellicola, il pezzo di apertura è di Norma Tanega, che è sconosciuta per lo più, ma è una folk singer degli anni 60 che fece 2 o 3 dischi. Il pezzo che ascoltate è tratto da Walking My Cat Named Dog. Fu una grande. Il pezzo si chiama You Are Dead. Secondo me è fantastico, come è fantastico il film, che veramente spicca tra i tanti inutili film horror. Questo ha un perché, anche se non è proprio horror, è contaminato da generi molto più vicini ai nostri anni. Comunque basta. Norma Tanega, You Are Dead. Don't sing if you want to live long. They have no use for your song. You're dead, you're dead, you're dead. You're dead and out of this world. You'll never get a second chance. Plan all your moves in advance. Stay dead, stay dead, stay dead. Stay dead and out of this world. Run fast, don't stand in the sun. There's too much work to be done. You're down, you're down, you're down. You're down and out of this world. Don't ever talk with your eyes. Sure that you compromise. You're dead, you're dead, you're dead. You're dead and out of this world. Hear the unloved weeping like rain. Guard your sleep from the sound of their pain. Long gone, long gone, long gone. Long gone and out of this world. When you smile and it tears your face, it's time for the inhuman race. You're down, you're down, you're down. You're down and out of this world. Now your hope and compassion is gone. You've sold out your dream to the world. Stay dead, stay dead, stay dead. You're dead and out of this world. Sei morto e sei fuori da questo mondo, è un po' il ritornello che gira in questo pezzo super folk di Norma Tanega. E siamo alla fine in tutti i sensi. E mi metto un pezzo tratto da un altro bel film che sta tra l'horror e la fantascienza, è comunque molto scuro anche come colonna sonora. Il film in questione è Under the Skin del 2013 del regista Jonathan Glazer, basato sul romanzo Sotto la pelle di Michael Faber. La trama è assurda, c'è questo alieno, che è un'aliena interpretata da Scarlett Johansson, che è sulla Terra per uccidere le persone, per dare vita alla vita aliena in sé, fino a che si sensibilizza a un certo punto, poi viene stuprata da un redneck. Il redneck praticamente la spoglia e gli toglie la pelle e diventa questa forma aliena tutta nera. Vabbè, comunque guardatelo. Ma la colonna sonora è molto interessante, molto raffinata e molto dronatica, di Mika Levy, che ha fatto anche la colonna sonora nel film del film Jackie, quello su Jackie O, la moglie del defunto assassinato Kennedy. Io vi lascio con questa, come dice Rudy Protrudi nel pezzo dei Fastones che abbiamo ascoltato prima, Good night wherever you are.